propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro David, popolo della zanzara, con un giorno di ritardo è scoppiata la polemica sulle frasi pronunciate qui, in questa sede, in questo luogo putrido, in questo bordello, in questa cloaca. Capito? Capito? No, perché sia chiaro, a tutti. Frasi pronunciate qui dal leghista Bonanno. Ah, certo. Dal certo. Tuo amico Bonanno. Con un po' di ritardo, come hai detto, strano. Sì, strano. Beh, strano, perché se ne accorgono sempre dopo. Facciamo risentire queste frasi. Non lo so, ce ne sarà qualche decina. No, può darsi che siano aumentati. Ma io sì, li schederei. Cioè, gli farei in modo che, insomma, che visto che hanno questa voglia di pubblicizzare il loro amore, il loro, la loro unione, va bene, allora segniamoli su un registro. Stava parlando ovviamente del numero di gay presenti nel comune di cui è sindaco, oltre che parlamentare europeo, cioè Borgo Sesia, provincia di Vercelli. Adesso, caro Parenzo, sfogati se vuoi, sfogati pure contro Bonanno. Poi ti dico quello che ha scritto Fiorella Mannoia, scatenando la polemica, la cantante Fiorella Mannoia. Bonanno, no, dimmi subito cosa sta. No, ma è chiaro che non li vuole schedare tipo cose, è evidente che non li vuole schedare tipo nazisti, no? Cioè non vuole mettergli la croce, no? La croce no, ma qui. Il senso di quest'uomo ormai giunto al capolinea. Ma quale capolinea? È solo l'inizio. No, è da poco ma non può scendere più in basso. Aspetta, c'è un'altra cosa che ha detto, sì. Che è quella. Se gli chiedono di sposarsi, perché sai che adesso c'è questa cosa qui, no? Che le coppie gay che si sposano all'estero poi chiedono la registrazione in Italia. Certo. Allora, lui, può succedere pure a qualche gay di Borgo Sesia, no? Cioè ci sono delle coppie gay che magari vanno da Bonanno, fanno toc toc, sindaco Bonanno, certo. Che facciamo noi? Ci vogliamo registrare, lei ci registra come coppia ufficiale? Bonanno. Dico, non è possibile, gli offro una banana magari. Se sono gentile, io li faccio accomodare, gli offro una banana, magari vogliono un'insalata di finocchi, non lo so. Battute. Sì, ma battute che fanno schifo, in bocca poi a un rappresentante delle istituzioni. No, ma lo so che ormai effettivamente noi non dobbiamo pensare che chi ci rappresenta sia migliore di noi, tutt'altro. Perché chi ci rappresenta è uguale a noi. Io non sono uguale a questo schifo, però. Vabbè, tu non sei uguale, ma questo qua si sapeva che non la pensi come buona, no, non è che lo scopriamo adesso. Una volta c'era anche un pudore, una volta, fino a pochi, forse anni fa, sì, anni fa, c'era un pudore. Sì. Cioè non è che in qualunque conto potevi dirle queste cose, si dicevano, certo, ma al bar, no, non si dicevano, neppure al bar. No, si dicevano sicuramente, sai quante volte. Allora? Le battute. Allora? La differenza è che questo qui non solo le dice alla radio e va bene, ma terza cosa, le dice alla radio da deputato europeo, quindi con una carica pubblica. Questa è la questione che dovrebbe far urlare. Allora, Fiorella Mannoia, qual è la novità? Perché questa è roba di 2 giorni fa, però. La novità qual è? Allora, Fiorella Mannoia, la cantante Fiorella Mannoia, donna di sinistra, no, una di quelle. Una donna per bene, una aspetta, brava persona. Stai tranquillo, vabbè, ma mica dico niente. Una di quelle che fa gli appelli perché Renzi sta violando la Costituzione, tutte queste stronzate qua, no? Firma le cose, gli appelli, il pericolo per la democrazia, eccetera, eccetera. Benissimo, tutto bene. Senti cosa scrive, e anche la gente come questo signore. signore ad armare le mani di quelli che ammazzano un diciottenne dopo averlo torturato e seviziato solo perché gay. E anche per gente come questa, se questa intolleranza sfocia nelle tragedie quotidiane che tutti conosciamo, e anche per gente come questa che ragazzi si suicidano perché non reggono più all'emarginazione, all'isolamento, allo scherno. È vero. Sono stanca di questa gentaglia e la chiamo con il nome che merita. Merda. Cioè, gli ha detto sostanzialmente che hai morti sulla coscienza. Cioè che è per colpa di Buonanno, di gente come Buonanno. Sai, certo, ma guarda che se la gente ragione si suicida, ma no, non osare dire una cosa di questo tipo. Ma io dico quello hai che morti pare, sulla... io lo dico ovunque fino a quando hai mi pare. Morti sulla coscienza. Guarda, ha detto un'altra cosa, ha detto e poi ha detto persone... gentaglia e merda, gentaglia. Vabbè, e merda. Ma certo, ma ognuno, siccome ormai si può dire qualunque vabbè. Cosa. Ma infatti va benissimo, per carità. Perché ti indigni perché Fiorella no, Mannoia gentaglia e merda, no, ma gentaglia e merda va benissimo, uno definisce una persona come vuole. Dopodiché ha ragione. No, fermi tutti. Ai morti sulla coscienza è un'altra cosa. Quando tu dici le parole di Buonanno armano gli omofobi. Dai, certo, su. Ma trovano una sponda in un rappresentante delle istituzioni. Ma chiaro. Di che stai parlando? Se uno su. Dice, ma guarda che anche quello lì lo dice, quello è pure deputato e usa il termine feroci che ti piace tanto. Usa il se usi questa cosa, legittimi dai, un su. Clima, questo è evidente. Allora, io li voglio andare a scovare uno per uno. Ieri ne abbiamo avuto un primo tocco, così, un primo assaggio. Quelli che sono dalla parte tua, Parenzo, quelli che vogliono punire i clienti io delle prostitute. Prostitute, pulire i clienti delle prostitute, perché secondo questi signori, tra cui Parenzo incredibilmente, che ha sollevato un'ondata di indignazione da parte degli ascoltatori di questa trasmissione. Ho visto, secondo, sono giorni che a Edimburgo mi fermano per strada. No, a Edimburgo no, a Edimburgo no, ho detto gli ascoltatori della trasmissione. Ma Terme l'hanno fermato in 50 dicendo ma lei veramente vuole multare, ma certo, in 50 certo, fermato, assolutamente. Ma hanno detto bravo, hai ragione, sì, criminalità organizzata, va punita. Cioè va punito il cliente della prostituta. Sberna, ma comunque li voglio andare a scovare uno per uno. Sberna, chiaro, sberna, dire di più, sberna, sono malati. Aspetta che c'è un ospite, c'è un ospite che... Sì, io penso proprio che siano delle persone malate, perché arrivare a sfruttare una donna semplicemente dall'ombelico in giù è qualche cosa che con la dignità della persona umana davvero non ha nulla a che fare, insomma, ha a che fare col vissuto animale, insomma, niente di più, niente. E... Questo è un deputato della Repubblica che pensa che coloro i quali sono tanti vanno a prostitute o donne che vanno con prostituti, uguale ieri ci ha chiamato anche un gigolò al termine di questa trasmissione interamente dedicata a qualsiasi cosa, quasi interamente dedicata a questa, sono degli animali, delle bestie, degli schifosi. Parenzo la pensa allo stesso modo? No, non come lui. No, beh, quasi. Va bene. Allora, abbiamo già un ospite, però la frase del giorno è quella pronunciata dal leader della CGIL, Susanna Camusso, che dice a Renzi che è uguale alla Thatcher. Ma magari fosse uguale alla Thatcher, magari! Viva Renzi! E ogni tanto ci pare che il Presidente del Consiglio ci abbia un po' troppo in mente il modello della Thatcher. Quando si guardano i modelli bisognerebbe guardare non solo ciò che è successo durante, ma anche che conseguenze ci sono state. La conseguenza di quel modello, del modello degli ultimi 20 anni nel nostro paese. Se avete capito qualcosa da quello che si sentiva, la Camusso dava a Renzi del Thatcheriano. Io ripeto, aggiungo magari. È con noi Enrico Vanzina, buonasera. Ciao, come stai? Come stai, Enrico? Sono a un fisso di un albergo, spero che mi sentiate. No, dove? Ti sentiamo perfettamente. Sono a Pescara, pensa un po'. Ma a Pescara, città dove? A Montecatini, stavamo qui insieme. Ma perché dovrebbe stare a Montecatini con te? Tu spiega, perché mi sei stato a Montecatini, tanto dopo ti dico cosa è successo, perché c'era la festa, ma non interessa forse a nessuno. No, non ci interessa, ma esatto, non interessa. La festa del PD a Montecatini. E chi se ne frega, stavo poi? Nella città di Flaiano. È la città dove abita mia madre. Albergo, no, perché è maestro di cinema Vanzina, sono nell'albergo bellissimo di Montecatini dove hanno girato un film famosissimo con Alberto Sordi, un italiano in vacanza, e Occi Ciornie. Addirittura. Ah, sì, vabbè, un albergo a Montecatino. Avranno girato tanti film a Montecatino perché si risparmiavano soldi, ci sono talmente tanti alberghi e tanti posti che si risparmiavano. Hanno fatto anche un film che si chiama Il Petomane a Montecatino. Beh, questo è più interessante. Ma perché tutti a Montecatini? Perché evidentemente se paga di meno, questo è il punto fondamentale. E non c'è altra ragione. Perché ci sono spazi. Da un po' li fanno meno a Montecatini. Senti Enrico, ma Renzi ti sembra veramente la Thatcher, come dice il leader dei sindacalisti italiani, del sindacalismo rosso? La sentivo male prima la Camusso. E anch'io, tutti lo sentivamo male. No, lo sentivo male. Comunque l'ha paragonato alla Thatcher, questo è il punto. Ma è un insulto essere paragonato alla Thatcher. No, per me no, per me magari, ho detto infatti. Insomma, la Thatcher ormai è una fetta di storia, può aver avuto torto, ragione, insomma, comunque l'Inghilterra è un paese che ancora c'è e ancora anche produce. Grazie alla Thatcher, anche grazie potrebbe forse, dire. Guarda, non voglio entrare in questa cosa perché effettivamente non so, io credo che l'Inghilterra sia un paese che ha virato sulla finanza e l'industria sta andando a scatafascio, per cui in realtà qualche ripercussione sulla classe operaia, quella classica, c'è stata sicuramente, però la Thatcher era un'altra categoria, insomma magari veramente Renzi fosse di quella statura, dici tu. Di quella statura, la Thatcher era una donna unica. Senti, ma chi è più moderno, chi è più avanti, chi è più a passo con i tempi? La Camusso, cioè il leader del grande sindacalismo rosso, o Renzi, secondo te? Ma nessuno dei due, secondo Come me. Come no, nessuno dei due. Tra i due chi preferisci tu? Ma guarda, io sono, faccio parte, pur non essendo un iscritto al PD, faccio parte di quella melassa un po' qualunquista che sta facendo il tifo sfegatato per Renzi, perché lo vediamo veramente, dico di una cosa, di una banalità, ma che riguarda veramente tante persone come me, è la nostra veramente l'ultima spiaggia. Beh, questo non ci credo apparentemente, io. Apparentemente. Eccoci qui, con noi Enrico Vanzina, David Parenzo da Montecatini a Pescara, Montecatini, Pescara, Milano. È la radio questa. Io sono sempre a Salisburgo. Ma no, però Bossi, ma come ancora a Salisburgo? Ma non c'è più un caso, c'è niente, quindi c'era la Sacher Torter a Salisburgo. Ma scusi, lei è andato prima, si è sbagliato, è andato a Strasburgo. Allora intanto un saluto a Radio Padania Libera. Ma non è Radio Padania, è Radio 24. Vabbè, è scorretto. Abbiamo fatto la secessione in Scozia. No, ha perso la... Chi ha perso? Ha perso il sì, ha perso, ha vinto il no. Abbiamo detto sì alla secessione, appunto. E no. Chi ha detto di no? Beh, ha detto di no gli scozzesi. Sei hanno detto stato tu con la tua radio. No, veramente pare che Salvini abbia portato un po' di sfiga. Guarda, dov'è Salvini? Dove è andato? Non c'è. Comunque perché lei è uscito. È andato a Salisburgo perché gli hanno detto di andare a Salisburgo. Oggi, tra l'altro, è il suo compleanno, Bossi. E infatti sono venuto qui per farmi gli auguri alla Radio Padania Libera. No, è Radio 24. E non è più direttore napoletano da oggi. Vabbè, d'accordo. È Renzo Bossi, direttore. Comunque, ancora a Salisburgo. Della radio. Vanzina, ma lei a Pescara, la città di Razzi, oggi ho una maglietta creata da Razzi, dopo daremo la notizia che Razzi vuole vendere per finanziare un ospedale romano. Ha fatto. Lei conosce Razzi, no, Vanzina? Sì, naturalmente sì. No, Antonio no. Razzi, come no? Senatore della Repubblica. Sì, imitato, non lo conosce personalmente, certo. Sì. In quello imitato da Crozza, insomma, no? Sì, ma una maglietta con il suo con la foto famosissima del suo matrimonio. ma lei nella commedia all'italiana, un posto per Razzi, pare che qualcuno gli abbia offerto di fare un film l'allenatore del pallone. Lei farebbe fare un film a Razzi? Ma pare che è millantata la cosa, ma neanche quelli dell'allenatore del pallone lo volevano, lui si è infilato da solo, è un genio. Anche in questo è un genio, lei lo considera un genio, diciamo la verità, un genio vero e proprio. No, ma lo considero affatto un genio, io poi devo dire la verità, che i politici sono abbastanza scarsi, ma secondo me sarebbero dei pessimi attori. Perché? E continuiamo a dire, ma perché le fanno male, recitano male, a dire la loro recita è una recita orribile, prima c'erano dei livelli di recita sensazionali. Cioè Renzi per esempio non potrebbe far parte di un cast della commedia italiana, sì, Renzi ma, sì. Ma no, perché no. In realtà è troppo scoperto, pure lui è un, insomma, non c'hanno quella finezza che ha per esempio Servillo, insomma la doppia lettura del personaggio, non c'è quasi mai. Lotito per esempio che non è un politico, sì, Lotito un posto glielo troverebbe a Lotito in un film. Ma neanche Lotito, guarda, io credo che in questo momento il paese sta andando male perché non abbiamo più dei protagonisti che sono degni di poter entrare nel mondo della commedia. La commedia è molto superiore a tutto ciò. Addirittura, commedia a qualsiasi politico. Berlusconi sì, però Berlusconi non muore mai. Sì, non muore mai, ma anche lui non, nell'ultimo periodo ha perso la possibilità di gesti, insomma il terzo atto sì. Insomma, io credo che la cosa più bella di chi fa teatro è di uscire dagli applausi, sì, invece sì. Rimanere sempre si è accomodato, insomma, su Renzi. Berlusconi si è un po' accomodato su Renzi, sì, diciamo. Un po' e poi questi continui Nazareno 2, no? Questi incontri così, insomma, anche da un punto di vista drammaturgico non fanno neanche più effetto, insomma, no? Grillo invece sembra ormai un morto che cammina, come lo vogliamo definire? Ma Grillo sta alle prese con dei problemi seri, secondo me, perché è diventato serio lui. Quando la butta in caciara mi piace molto, quando fa un po' lo stalinista non mi piace, insomma. Parenzo, dove sei? È più credibile, no, ha ragione Vanzino, scusa, è più credibile quando fa il comico. Fa il comico, certo. Fa finta di fare politica, quando invece fa lo statista, il Churchill 5 Stelle, sì. È patetico. Senti Enrico, ma anche a te fa schifo Marino, come a molte persone che parlano di Roma, di come Roma viene amministrata? A me non piacciono così in generale quelli prestati alla politica in questo modo, ecco, insomma, vabbè, ma Roma è amministrata male, come la vedi tu? Cioè? Non è amministrata bene in questo momento. Cioè, lo cambieresti? Lo cambierei, sì, ma penso che lo vorrebbero cambiare in tanti, anche quelli del suo partito, no? Beh, sembra di sì, però non trova nel modo, sai, è difficile in Italia uscire fuori da... Qual è la cosa che ti colpisce di più a Roma che proprio non va bene, a parte le cose croniche, storiche, eccetera? Che non funziona a Roma? No, ma a parte le cose croniche, storiche, cioè, cos'è il vero dramma, la vera tragedia di Marino, che non decide, che decide male? Io credo che adesso fare il sindaco di Roma è una roba... È un'impresa titanica, d'accordo. È un'impresa veramente titanica. Credo che Roma è utilizzata per il suo potenziale, questo lo rimprovero a tutti i sindaci che ci sono stati negli ultimi anni, è utilizzata nel suo potenziale al 10%. Qualunque altro bravo sindaco di un'altra grande capitale avesse in mano Roma ne trarrebbe dei vantaggi pazzeschi. Ma il difetto maggiore di Marino qual è? L'arroganza? Il difetto maggiore di Marino è di avere questo sguardo di scherno nei confronti di chi gli dice delle cose, ecco, sì, insomma, sì. Questo è un atteggiamento che non va bene a Roma soprattutto, ecco. Senti, mi dici qualcosa invece del nuovo idolo che abbiamo qui alla Zanzara, ma che ormai diventerà fra poco patrimonio di tutti gli italiani, Ferrero, il produttore cinematografico Ferrero. Detto il Viperetta. Il Viperetta io lo conosco da tanti anni, ma esatto. non lo conosco bene. Ma perché ha preso sta Sampdoria, secondo te, uno che allora, è romano? Io sono andato un giorno a Genova, che era stato appena, sì, era appena sì. comprato la Sampdoria, e questo mi ha detto: senta, dice, io non dicevi con accento genovese, sono preoccupato perché il nostro presidente, che la chiama la Sampdoria, per noi è un piccolo problema. Ecco, allora effettivamente uno che considera la Sampdoria la Sampdoria, ma che c'è andato a fare lì? Non capisco, è un mistero, è un mistero totale. Poi gli ho sentito dire una cosa meravigliosa, cioè? Dice, ma lei verrà a vivere qua? Dice, sì. E lui ha detto, dice sì, dice sto a cercare una casa, dice, dove la vuole prendere? Cerco un monolocale. Questi l'hanno guardato, dice, come presidente? Dice sì, perché tutti i soldi che c'è l'ho messi nella Sampdoria. No, ci ho pensato bene su questa cosa della Thatcher, David, su questa cosa del paragone che ha fatto, pensando di fare un paragone disdicevole, pensando quasi di insultarlo, no? Sei come la Thatcher, perché nel mondo della sinistra italiana la Thatcher è una sorta di mostro, no? Di mostro a tre teste che ha distrutto i lavoratori, invece ha salvato un paese. Ma è così lontano Renzi dalla Thatcher, che ti vorrei leggere alcune frasi storiche della grandissima Thatcher. Il mio lavoro è impedire alla Gran Bretagna di diventare rossa. È una frase straordinaria, 3 novembre del 77. Gennaio 78, le persone hanno davvero paura che questo paese possa essere invaso da altre persone di una cultura differente. Noi non facciamo politica per ignorare le preoccupazioni delle persone, facciamo politica per occuparcene. Odio ogni tipo di estremismo, i comunisti e il Fronte Nazionale, che all'epoca era un partito di estrema destra, cercano di realizzare entrambi il dominio dello Stato sull'individuo. Entrambi, secondo me, vogliono distruggere i diritti individuali. Per me sono partiti dello stesso tipo. È bellissima questa, eh? La società non esiste, esistono gli individui, gli uomini e le donne, ed esistono le famiglie. I socialisti urlano potere al popolo con il pugno chiuso alzato. Sappiamo tutti quello che vogliono davvero: il potere sulle persone, il potere allo Stato. Sono stata eletta con un intento evidente: cambiare il Regno Unito da una società dipendente in una società autosufficiente, da una nazione dammi qualcosa a una nazione fallo da te. In una Gran Bretagna alzati e fallo, anziché in una siediti e aspetta. Ecco, quelli che seguono i sindacati, quelli che vogliono che siano mantenuti privilegi assurdi, sono quelli dei sediti e aspetta. Sono quelli del dammi qualcosa. Ma ti pare che Renzi possa essere paragonato alla Thatcher? Tant'è che lui stesso lo dice, eh? Senti come risponde alla Camusso. Senti, senti come risponde. A quei sindacati che vogliono contestarci, io non chiedo di darci almeno il tempo di presentare le proposte prima di fare le polemiche, ma chiedo dove eravate in questi anni quando si è prodotta la più grande ingiustizia che ha l'Italia, l'ingiustizia tra chi il lavoro ce l'ha e chi il lavoro non ce l'ha, e soprattutto tra chi non può neanche pensare a costruirsi un progetto di vita, perché si è pensato soltanto a difendere le battaglie ideologiche e non i problemi concreti della gente. Noi non vogliamo il mercato del lavoro di Margaret Thatcher, noi vogliamo il mercato del lavoro in cui ci sono cittadini tutti uguali, vogliamo un mercato del lavoro giusto, vogliamo delle regole sul diritto del lavoro giuste. Che non vuol dire niente poi, eh? Che non vuol dire nulla, frasi vuote totalmente. Comunque, qualche accenno di miglioramento c'è, in questa roba qui che vogliono fare. Poi vedremo il Parlamento, le discussioni, quello che ci sarà, le battaglie, i cambiamenti. Già si parte da quelli neoassunti, non da quelli che già sono. Già si parte da un'altra categoria. Ma quale Thatcher? Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, va, titolo del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Gli scozzesi bocciano la separazione, Londra annuncia maggiore autonomia per tutti, il sollievo di Cameron mentre si dimette il leader degli indipendentisti. Camusso attacca la riforma del lavoro, Renzi ammette il modello Thatcher, Bersani daremo battaglia, la Fiom in piazza il 18 ottobre. La replica del Premier alla CGIL, dove eravate quando si è creata l'ingiustizia al precariato, con questa riforma noi difendiamo le persone. Per la prima volta caccia francesi intervengono in Iraq e distruggono una base dell'ISIS. Stasera si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Bomba d'acqua è grande, le Firenze chiusi per ora i musei, biblioteca nazionale allagata, 20 feriti in provincia, crollo di una scuola, milioni di danni agli occhianti. Sarà sentito presto dai magistrati Arturo Equabile, il latitante arrestato a Casoria per i carabinieri, era insieme a Davide Bifolco, ucciso dopo l'inseguimento. Simbolo del nostro cinema e della bellezza italiana, Sofia Loren compie domani 80 anni. Nella storia con decine di successi, oggi dice, sono ancora piena di vita. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Il sindaco di Napoli De Magistris, caro Parenzo, caro Parenzo. Mamma mia, il sindaco di Napoli. Tanto che cazzo ce ne frega, possiamo dire quello che vogliamo qui, anzi dobbiamo dire quello che vogliamo, fottendocene dei rapporti, di quello che possono dire gli altri. Ma ti pare possibile che il sindaco di Napoli possa avallare una puttanata di questo tipo? Neo borbonici, ascoltate questa roba qua. Il sindaco di Napoli dice che bisogna costruire per Davide Bifolco, ripeto, grande rispetto, è morto, la famiglia, io rispetto profondamente e abbraccio fortissimamente la famiglia Bifolco, non è questo il punto, sono le reazioni dei politici e le reazioni di alcune persone vicine alla famiglia che mi fanno impazzire. Il sindaco di Napoli De Magistris, lo sai cosa vuole fare? Una specie di mausoleo, non quello che abbiamo visto, oppure simil quello che abbiamo visto, insomma vuole realizzare una specie di cosa votiva, non mi ricordo bene, ci ha detto che bisogna ricordare, perché bisogna ricordare? Alla famiglia ricorderà nelle maniere dovute il ragazzo Davide Bifolco, perché nel posto in cui è successa quella roba lì bisogna fare una lapide o una cosa di quel, per quale motivo, non una lapide, una cosa che per cui il comune ricorda Davide Bifolco, perché? L'idea che è venuto fuori dalle persone del posto è quello di adottare, avere in affidamento le aiuole in cui è accaduto il fatto, e noi abbiamo apprezzato moltissimo questa iniziativa, e quindi formalmente, come spesso accade nella nostra città, che sono circa 200 i luoghi adottati di Napoli da parte dei cittadini e le associazioni, si sta seguendo questo percorso, in modo che sarà un luogo dove gli amici, i familiari, le persone del rione che ritengono, hanno un punto dove andare a pregare, a pensare e a riflettere. And whatever comes our way, yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Poi senti questa, Napoli città della legalità e dell'anticamorra. Napoli città della legalità e dell'anticamorra, ha detto. Perché non un luogo della memoria per le vittime della camorra? Guardi, questo signore venga a Napoli, troverà decine di luoghi della memoria per la camorra, cominciare dal mio giardino, dal giardino che si trova di fronte Palazzo San Giacomo, alla sede del municipio che è dedicata a Falcone e Borsellino, alle donne e gli uomini della scorta e a tutte le vittime di mafia e della camorra. Napoli è una città dell'anticamorra e della legalità. Giuseppe da Novara, buonasera. Buonasera. Dica. Prima un bellissimo messaggio per il sindaco di Napoli. Se Napoli è la città della legalità, lo deve spiegare anche ai suoi vigili, che evidentemente chiudono gli occhi su una. Si dovrebbe rispondere ciao core quando dice così, la città della legalità e dell'anticamorra, sì, domani mattina. Per carità, ci sono altre città, mica solo Napoli, però certamente non è che si può definire Napoli la città della legalità e dell'anticamorra. Adesso, ci sono persone che sicuramente seguono le leggi, eccetera, eccetera, persone che sono contro la camorra, non c'è, però non è che tipo, Napoli il simbolo dell'anticamorra, no. No, io volevo chiedere a Parenzo se è in linea, posto che io non ho una posizione precisa, però se ricordo bene, Parenzo è contro il perseguire i consumatori di droghe, o mi sbaglio? Sì, certo, assolutamente. Mi sembra un po' in contraddizione, però volere invece. No, assolutamente, tutt'altro. Ah, no, è chiaramente in contraddizione. No, se vuoi te lo dico perché in 40 secondi, ma tutt'altro, perché un conto è farsi, come dire, scegliersi di farsi della se stessi, drogarsi. Sì, ma alimenti comunque un mercato, uno potrebbe dire, alimenti un mercato. No? E questa è l'altra questione. Un conto però. La questione. Stai parlando di questo, sono stai due parlando. Diverse, un conto è la stessa cosa. È la stessa compra, cosa. Infatti, io sono per la legalizzazione delle droghe. Come e allora dovresti essere per la legalizzazione della prostituzione, ma infatti, non per punire adesso i clienti. Ho detto anche ieri che sono per la legalizzazione della prostituzione sotto quelle regole, fino a quando non ci sarà questo, e siccome non c'è nessuna puniamo volontà clienti, politica per puniamo i clienti. Puniamo i clienti per toglierli al racket in cui delle donne vengono sfruttate. Infatti punendo i clienti sai che racket togli. We'll be right back. buongiorno, assistiamo sempre di più allo sdagonamento di alcune parole. Ormai anche, come dire, gli uomini in apparenza più signori, più, no, i cosiddetti uomini per bene, di quelli come Parenzo, no, quelli che in apparenza sono così gentili, quelli che in apparenza sono educati, utilizzano le parole che vanno usate in alcuni momenti, le parole vere, quelle che vengono fuori dal cuore, quelle che vengono fuori dallo stomaco. Abbiamo iniziato con Marchionne e Montezemolo, ve lo ricordate, no, con la parola cazzate. Stavo parlando di cazzate, vorrei correggere un po' di cazzate che avete scritto voi negli scorsi giorni. Questo Marchionne, poi Montezemolo. Grazie a tutti voi, ogni tanto avete scritto delle cazzate, ogni tanto. Adesso il turno, mi era sfuggito, l'ho recuperata questa oggi, Ilvo Diamanti, Parenzo, Ilvo Diamanti, beh, sociologo, persona molto... No, scrive su Repubblica, persona che fa parte della creme intellettuale di questo paese. Sentiamo, i giovani non si incazzano, cioè usa la parola io mi ricordo che quando usai la parola incazzato all'inizio di Radio Belva, il 9 ottobre di quasi un anno fa ormai, tutti dissero, hai detto una parola dopo 34 secondi, ho detto la stessa parola che sta usando adesso Ilvo Diamanti. E uno potrebbe dire, ma allora perché non si incazzano? Hanno un sacco di motivi per farlo. Perché non si incazzano con la politica, con le istituzioni, con l'assenza di riforme? Perché non si incazzano? Ma mi dicono che stava ascoltando l'inizio della trasmissione e ha chiamato. Buon anno, Parenzo, lo facciamo parlare? Sì, naturalmente, che dici? Sì, no, volevo... Sì, figurati, certo. Ma sai qual è la differenza? Perché effettivamente Diamanti, che usa questa parola, fa notizia, no? E noi non fa notizia perché le usiamo sempre, quindi è evidente. No, che ma non è diverso. il punto è che si possono usare tranquillamente, no, cazzate, incazzarsi, si possono, sì, usare normalmente, sì, è inutile, basta buonismo, caso, basta moralismo, no, basta, ma per benismo. È il quantum. Che noia, mamma mia, che noia. Gianluca, ciao, Gianluca, buon anno, ciao. Buonasera, ciao. Che ciao, succede ciao con questa storia della manta? Hai dato della merda, qual è l'altra cosa dunque, della merda? Praticamente istighi alla violenza nei confronti dei gay, e poi gentaglia, che fai? Sì. Che reazione hai? Ma la mannoia io me la ricordo perché nel 2008 è venuto nella città di Varallo, dove allora facevo il sindaco, ho preso più di 30.000 euro per fare il concerto, ma evidentemente gli andava bene così. Poi quest'anno... Cioè tu mi stai dicendo che nel 2008 tu sindaco, che già c'erano le facce lì, ti ricordi i manifesti, Parenzo, ti ricordi, no? Come dire, le Maroni e i leghisti nelle loro... È venuto in un comune leghista e ha fatto lo spettacolo, mica ha detto niente. Quanti soldi ha preso? Quasi 30.000? Circa 30.000 euro. Che c'entra? No, per dire, perché se poi quando uno canta si dimentica allora... la sua idea, o che buon anno è cattivo, o che la Lega è cattiva, ma quest'anno si sono offerte di venire ancora, sì, e ne hanno chiesti 58.000 di euro, gli abbiamo detto di, cioè, no. Cioè quest'anno, con buon anno, con tutto quello che ha fatto buon anno negli ultimi anni, le cose che ha detto, eccetera, eccetera, la società non è disponibile a venire a Varallo a 58.000 euro. Beh, quindi io volevo dire, ma li meritava? No, intanto gli abbiamo detto di no, ma al di là di quello, l'anno prima gli eravate 30.000 perché è una grande no, nel 2008, non so quando, non me ne frega. Vabbè, niente, la cosa è questa, la cosa qual è la cosa che il viene fuori da... Assunto è che se tu pensi che buon anno ha poi detto delle cose, io sono contento perché potrò fare beneficenza con le dichiarazioni della Mannoia, che già il cognome Mannoia anche a parlare di lei, però il discorso è che se tu hai dei problemi, non ti piacciono determinate cose, non devi venire a fare i concerti allora nella città dove fa il sindaco uno che tu ripudi totalmente. E neanche, beh, ti ha dato della merda, ti ha dato per venire quest'anno. Vabbè, questo è la cosa, ti ha dato della merda, cioè, ti appunto, ha dato... figurarsi. Ma la vuoi querelare? I soliti comunisti con il portafoglio destra, ma certamente farò qualcosa perché vorrei dare dei soldi in beneficenza. Ma è la stessa cosa che è capitata a Daniele Silvestri, che l'anno scorso è venuto alla manifestazione. Sì. ha preso circa 25.000 euro. Sì. Finito tutto lo spettacolo, si è messo a parlare e disquisire dei cartelli che ho fatto sul burka. Sì, sì. Allora io ho detto, ma se non ti piacciono i cartelli, fai una cosa, restituisci i soldi e io tiro via i cartelli. Non l'ho più sentito. Quindi, per dire che questi fanno tutti i comunisti. Ma cosa c'entra? Fanno tutti i comunisti, si mettono lì a disquisire le cose, però quando si parla di denaro, allora va bene. Se ti fa schifo, siccome è un piccolo paese, non è Roma, se ti fa schifo il sindaco che amministra ma questo posto, se sciocchezza. Pensi che sia un razzista, ma uno schifoso razzista. Ma cantare per la città, mica per me. Ma è un piccolo paese allora, amministrato la cui immagine è molto legata a una persona, no? Ma figuriamoci, sei allora, quello lì. No, dai, allora, sì, guarda, posso dire, sono serio. Varano è un posto bellissimo. Sono 21 anni. Buon anno. No, aspetta un attimo, parente, adesso non sto scherzando. Sono 21 anni che faccio sindaco, dal 1993. Ho fatto sindaco in 3 comuni diversi, elezioni diretta. A Varallo, dove la Mannoia ha fatto lo spettacolo, sì, e dove era riproposta quest'anno, sì, ho preso l'81%. Quindi che c'è? Non è che sono, no, per dire che non è che amministrare, adesso sono serio, non faccio lo stupidino come magari può succedere perché la trasmissione è anche un po' scherzosa. L'81% significa che hai fatto delle cose serie, che se da 21 anni in 3 posti diversi la gente ti vota. Non è che... Vabbè, però lasciamo perdere questo. Gianluca, io voglio dire una cosa. Uno che ti dà della merda, sì, merda, sì. Ma la cosa più importante è l'istigazione al... Praticamente ti ha detto che istighi gli omofobi a picchiare un gay. Questo ti Pensa ha detto. Te, ma anche lì, allora... Cioè, hai morti sulla coscienza. Se io ce l'avessi veramente con gli omosessuali, inviterei come ho invitato quest'anno, ad esempio, Ron a Varallo? No. Io ho amici omosessuali. Quello che a me non piace degli omosessuali, lo ripeto qua, è il fatto che vogliono evidenziare sempre tutto. Appena tu dici una cosa storta e capita un omosessuale, fanno dei grandi... diciamo, no, ma a una che ti dice che hai morti sulla coscienza, oltre a quelle a querelarla, cosa vuoi dire? A lei? Cioè, veramente, a una che ti dà della merda. Che adesso prendo la carta igienica, ritaglio un pezzo di giornale con la sua foto e cercherò di darle una mano. Cioè, nel senso che ti pulisci. Così è contenta, almeno si mette in pace con se stessa. Perché alla fine quello che lei dice, in realtà, è quello che è lei. Perché vedi, lui è semplicemente volgare. Cioè, lei è una merda. Io non mi permetto di accusare nessuno di determinate cose. Una che fa così, che vive nel mondo dello spettacolo, si dovrebbe vergognare. Perché ma accusare tutti... uno di istigare l'omicidio. Ti devi vergognare tu per quello che dici, altro che. È una vergogna ti sua. Ti devi vergognare. Perché io tu... ho le mie idee e me le tengo. Ma non è questo. Perché... Ma non puoi pensare. Parenzo, tu l'hai detto prima. Non puoi pensare che Buonanno istiga alla violenza. Non lo puoi pensare questo. Ma me lo fai dire perché. Dimmelo, diglielo in faccia. Sei coraggio. Ma ti calmi 5 minuti? Diglielo! Certo, ma glielo dico in faccia, lui e tanti altri che usano questo tipo di linguaggio, provate a immaginare come si possono sentire i genitori di quel ragazzo che si è ucciso a sentire le vostre parole, le vostre parole. No, io non ho detto niente. Non, cioè, tu non dici niente, non sei tu e i tanti centinaia di Buonanno che ogni tanto passano da qui e danno aria al loro cioè, secondo te, cervello. Secondo te la gente io che va a picchiare panni, i gay, che non è che sono sì, poi migliaia sì, di sì, così esatto, prendono esatto. spunto dalle parole di Buonanno, come esatto. ha detto la Mannoia. No, si sentono anche legittimati dal fatto che mentre queste cose una volta cose venivano dette sottovoce o nel bar e avevano anche un certo venivano considerate invece adesso secondo te vengono dette da un politico sono vabbè, talmente vabbè. Sdoganate che li può dire chiunque ad alta voce e allora siete delle scimmie, ragionate come delle scimmie e allora e che succede? Contribuisce a creare un clima io conosco solo il clima, quello di cosa? La pioggia, il sole, queste robe qua. Il vento, la tempesta. Bravo, io adesso fammi vedere il clima così. No? Il famoso clima. La nebbia. Bernacca, questa bravissimo, cosa. Bravissimo, bravo. Però Parenzo, bravo. Se sei onesto intellettualmente, non puoi non puoi dire che io istigo la violenza, perché una, io non quando tu faccio un ragionamento, ma non è, ma vedi che non capisco, il fatto che io non capisco non mi stupisce, no, dice che crei un clima, dice che crei un clima, vabbè, vi devo lasciare ragazzi, vi devo lasciare, posso dire quello che penso, ma assolutamente sì, non voglio schedare nessun omosessuale, vogliono avere il registro, ma io gli faccio anche i manifesti se vogliono dire che si amano, però allora lo facciamo per tutti gli eterosessuali, cioè, mi sembra che ogni volta si debba esagerare, io non ce l'ho con nessuno, però non voglio, non, almeno non voglio, non mi piace che gli omosessuali vogliono sempre fare delle cose giganti appena vengono toccati, mentre loro possono fare tutto quello che hanno voglia. Giovanni da Ferrara, Giovanni da Ferrara, ma che è quello dell'altra volta, Giovanni da Ferrara, ma Giovanni? Ma no, io non, in realtà non volevo più chiamare perché siete insopportabili. Ma però... ma quanti telefoni hai, Giovanni? Ma no, se tutti hanno 3-4 telefoni, 4 numeri, non vabbè, è normale. Dimmi. Cioè no, il problema è che io stanotte guidavo e ho sentito queste cose... veramente inascoltabili da parte di come si chiama lì? Parenzo. Sì, esatto. Cioè, quella, cioè multare le prostitute. Cioè, multare i clienti e le prostitute, perché il cliente deve sapere che la ragazza lì è sottoposta a racket. Ma è un deficiente questo Parenzo. Cioè, sì, voglio raccontare questo aneddoto. Lascia stare le battute, hai detto una cazzata. Comunque, una volta un amico si innamorò di una prostituta, questa storia vera, Si innamorò di una prostituta, allora gli dice: guarda, ti assumo, ti faccio mettere in un bar. Pretty Woman. Il bar guadagnava 1000 euro. Il Pretty Woman. 1000 euro li vedeva in una sera e non c'è andato. Ma fammi raccontare, cioè, quando uno va anche in un negozio, non è che può preoccuparsi, ecco, come Pretty Woman, ecco Richard Gere, il Pretty Woman ma ha ragione lui. Hai detto che uno deve sapere che lì è quella prostituta sottoposta a racket, ma ho detto che nel telefono nel 70% ma non dei casi, ma non è vero neanche questo, perché se tu vai in giro, per Bologna, per Roma, trovi delle ragazze, delle signore anche che lo fanno di professione, non sono sottoposte a nessun racket. Certo, ci saranno anche quelle, ma anche loro, se vai in un bar, se sono sottoposti a racket, che fanno? Vai al bar allora io non posso andare in un bar, perché esatto, puoi fare sottoposto a racket. A Palermo non vado, perché siccome pagano il pizzo, da nessuna parte puoi andare, dai, sei ridicolo, Parenzo, Parenzo, quando hai detto una cazzata, quando dici una cazzata me lo riconosci, hai detto una cazzata enorme. Se vi piace così, se non puoi dare la multa ai clienti, vi mandiamo la multa anche a casa. Qual è il reato che commettono i clienti delle prostitute? Dov'è il reato? È diventato, guarda. Ci deve pensare la polizia, semmai, se qualche prostituta è sottoposta a racket, ci pensi la polizia, non certo il cliente. Che male fa il cliente? Dov'è il reato del cliente? Cosa c'è di male se uno va con una prostituta? Viva le prostitute! L'unica cosa che dobbiamo dire è che non siano sottoposte a racket. Questo appunto. Ma perché se tu multi i clienti delle prostitute, cosa risolvi? Perché per ora sei in assenza di una legge che In assenza che succede? Fai incazzare la moglie col marito? Ti piace fare incazzare la moglie col marito? Questo di mandare le multe a casa poi è una cosa pazzesca, perché semmai, se uno trova sfogo, se anche uno sposato trova sfogo con le prostitute, perché gli devi rovinare la famiglia, Parenzo? Sei una merda. Merda. Quando tu hai detto che bisogna mandare le foto a casa, sei una merda, non Buonanno. Rovini le famiglie, sei uno schifoso, devi riconoscere questo. Anche con la foto, se vuoi, aggiungo. Sei una merda, sei una merda, famiglia, fai schifo. Anche con la foto della macchina. La foto dei clienti, delle prostitute, fai schifo. Così di più? Solo per questo. È una esageriamo ancora di più. Così ci divertiamo ancora di più. Multa, foto e poi il poliziotto che va addirittura a casa e spiega il reato alla moglie. Mi piace così. È una vergogna. Un poveraccio, vabbè, ma ormai è diventato. Un poveraccio, dice delle cazzate pazzesche. Mi piace, io ho detto semplicemente la multa ai clienti. Se non mi piace, è problema vostro. Vabbè. Ma dov'è il reato? Dimmi, dove sta il reato del cliente della prostituta, Parenzo? Dove sta? Nessuno, non c'è reato. Lo vuole creare, nuovo di zecca. Ma dai, reato! Perché devi mandargli la multa? Perché reato primo perché la multa non è un reato, la multa ma è un illecito amministrativo. Secondo, perché devi mandargli la multa a casa? Parenzo, sei una infatti merda. Non è un reato, avete capito proprio male. Vabbè, grazie. Ragazzi, indosso una maglietta che diventerà una maglietta storica, è già diventata un'immagine storica, simbolo di questo Parlamento. Antonio Razzi e la moglie, la foto del loro matrimonio che è uscita su tutti i giornali mesi fa, è stata trasformata in una maglietta, eccola qua, la indosso. Ci sono pochi esemplari circolanti, caro Parenzo, pochissimi esemplari circolanti. Io credo tu ne voglia una, o sbaglio? Beh, certo, immagino, sì, sicuro. La vuoi o no? Beh, non so cosa rappresenta, però. Ma come non sa? È il matrimonio di Razzi, amico mio, ma sei il cervello ormai completamente in pappa. Ma completamente in pappa il cervello ce l'hai. Totalmente in pappa. Scusami, il cervello. Non ho visto questa cosa della maglietta, ma mi sono occupato del referendum scozzese. Sì. Antonio Razzi dalla Svizzera è con noi, buonasera! Buonasera a tutti i radioascoltatori. Ma come mai? Dove sei? Perché sei scappato in Svizzera, Anto? No, sono a Lucerna perché c'è il mio figlio. Sì? Ah, già, è vero. No, è 3 mesi che non lo vedevo, almeno sono venuto oggi e domani a trovarlo. Ah, perché fate la settimana corta alla Camera voi. Chi è che vi vuole far lavorare? La Boschi dice che vuole che lavorate di più, Anto. Ma io guarda, io gliel'ho detto da amico, e ho detto per me non è un problema, io ho sempre lavorato 7 giorni su 7, per me che me ne frega a me, io posso lavorare tranquillamente 7 giorni, perché sono 50 anni che lavoro, figurati. E vabbè, ma perché, però problema. scusa, ma è o no una stronzata questa qua della Boschi che dice che bisogna lavorare anche gli che non va bene lavorare da martedì a giovedì, scusa? L'importante è come si lavora e la qualità di quello che si fa, in altri paesi le sessioni della Camera e del Senato durano pure meno. No, specialmente in Svizzera c'hanno sempre poche settimane che loro lavorano tutto l'anno, perché hanno saison, no? Come stagionale, non è che tutti i giorni come lo facciamo noi, però se lo facciamo anche 3 giorni, ma si fa bene, vale per 7 giorni tranquillamente. Vabbè, comunque io sono disposto a diglielo alla Boschi, io sono disposto a fare anche 7 su 7, non c'è problema. A me non c'è problema, io ho sempre lavorato 24 ore su 24, ho lavorato 12 ore di notte, di giorno, perciò a me non è un problema a lavorare tutti i giorni, anzi ci sono tutti i giorni, perché io quando rientro a Pescara, sì, nella via Pescara, sì, incontro tutti i cittadini senza problemi. Vabbè, adesso, quella è un'altra cosa. L'unica cosa che non incontro è mia moglie, perché non c'ho mai tempo. A proposito, questa maglietta, quanti esemplari hai fatto di questa maglietta straordinaria? Adesso l'ho mandata anche via Twitter, eccetera. 100, non più. 100, ne facciamo 100, facciamo 100. E tutto quello che si riesce io lo do al bambino Gesù di Roma. Poi stabiliremo un prezzo. Stabiliremo un prezzo. Tu lo sai che io sono solo per far beneficenza e basta. Allora, mi piace fare beneficenza. Allora, due importanti, adesso non esageriamo, due ragazzi, nostri amici simpatici, che uno è il capo dei media del Partito Democratico, adesso non mi ricordo, ci sono 40 ruoli, Francesco Nicodemo e un altro, dicono che vogliono assolutamente la maglietta, cioè pure i democratici, pure leader, chiamiamoli così, leader democratici vogliono questa maglietta, nuova maglietta di Razzi, che non è quella classica con la foto di Razzi eccetera, è la foto del matrimonio di Razzi con la moglie, di cui ci racconterà alcuni particolari. Allora, il ricavato di questa roba qui, 100 magliette, andrà al Bambin Gesù di Roma, precisiamo subito. È una cosa indegna la sua trasmissione. Forte, caro Parenzo, mentre abbiamo Antonio Razzi in collegamento, senatore di Forza Italia, nuova maglietta in beneficenza, 100 esemplari per l'ospedale Bambin Gesù di Roma, l'effigie, la fotografia del suo matrimonio, eccola qua, la potete vedere in webcam, poi la farò vedere dappertutto, eh. So che alla radio far vedere le magliette è un po' complicato. Comunque, è una foto di un matrimonio, anni 60. Celebrato in Spagna. Sì, certo, quella con i capelli. Celebrato in Spagna a León. A León. Bravo, bravo. Beh, me lo ricordo, Antò. Mi hai raccontato tutto. Mi ha raccontato, Parenzo, mi ha raccontato di un viaggio incredibile nei Pirenei con la macchina che si è rotta. Mi ha raccontato. Ma anche me l'ha raccontato come ha conquistato la signora. Come ha conquistato la signora? Io so tutto di non quando ha fatto la portava a ballare. Non ha fatto l'amore prima del matrimonio. Oh, complimenti a Parenzo. Diciamo la verità. Noi siamo dei biografi, c'è la biografia di Churchill, noi faremo la biografia di Razzi, ognuno il suo. Dimmi la verità, Antò. Prima di non hai fatto l'amore con tua moglie, prima di no. Prima del matrimonio, niente, prima del matrimonio. Purtroppo lei era molto è sempre stata una seria, rigida, molto rigida da questo punto di vista. Cioè, prima del matrimonio, niente. No, lei, non lui. No, lui no. Ecco perché me l'ho sposata, perché è una seria, proprio. Però ti volevi salvare, ti volevi anche un po' salvare, ti ha salvato, diciamo, ti ha salvato dalla perdizione. Mi ha salvato, se oggi sono anche parlamentare, devo dire anche grazie a lei. No, ma ti ha salvato perché c'avevi un sacco di donne, non sapevi da che parte, a chi dare resti, come si dice in gergo, o no? Beh, questo si può dire, o no? Quello è vero. Ma sì, è così, insomma, molte volte l'aiuto anche di un uomo è anche la donna. Sì, questo si dice, si dice come Cristo prima lo fa e dopo la coppia. Si vede che a me mi ha accoppiato bene e meno male. Siamo insieme da 40 anni. Da 40 anni, però diciamo, prima facevi una vita sessualmente molto allegra, prima di incontrare tu. Molto, non sapevo mai dove dormivo. Esatto. Invece adesso so dove vado a dormire. Questo però anche 40 anni fa. Anche 40 anni fa. Cioè, a un certo punto ha detto, guarda, tu devi smettere di fare quella vita lì e devi diventare monogamo, fedele. No, ma io mi sembra che già l'ho detto un'altra volta. Io ho detto, mi sono sposato. A parte che ho trovato una donna fantastica. Sì, vabbè, certo, quella... E poi ho detto, guarda, in modo così non muoio sopra una donna. E così almeno sono salvato. Così, cioè tua moglie ti ha salvato, altrimenti saresti morto sopra una donna. Ma di che? Ma poi di che? Negli anni 60, gli anni 60, 70. No, ma morto di che? Di che saresti morto? Di infarto? Di che saresti morto? Ma non lo so, forse... Di che? Non lo so. AIDS, AIDS, dici tu. No, qualche cosa... Sifilide. Magari... Ma che malattie? Perso tutto il sangue. Come perso tutto il sangue? uno che fa tutti i giorni lavoro, non credo che gli rimane il sangue su. Ah, tu dici che crepavi così per si autodistrugge piano piano. Beh. Non è che puoi stare a fare l'amore 24 ore su 24, scusa. Beh, non è che facevi 24 ore su 24. Antò, non è che facevi 24. Non è che facevi 24 ore su 24 tu, però, dai. No. 20 no, su 20. No, quello no. Però quello ogni giorno lo facevi. Ma era automatico. Era automatico. Eri diventato una specie di mostro da questo punto di vista, un martello un martello. Molte volte, sai, è come quando uno si sveglia sempre alla stessa ora. Io mi sveglio sempre verso le 5 e mezza, 6:15, no? Sì. È la stessa cosa, uno si sveglia e pensa solo a quello. Pensavi, eri ossessionato, diciamo, praticamente, eri ossessionato. Ma non c'era altro divertimento. Non è che c'è come oggi, i giocattoli, i giochettini, i giochi là, insomma, televisione. Lì ci stava anche la televisione, se ne vedeva poco. E che c'è? Specialmente io che ero nella Svizzera tedesca, figurati. Non ci vedeva la televisione italiana, cosa facevi? Solo le donne, solo le donne. Vabbè, io stavo dicendo allora che qui c'è qualcuno, caro Parenzo, che non ci vuole più fare trombare, non ci vuole più fare scopare, te lo dico sul serio, ma te lo dico veramente. Sì, tuoi colleghi che conosci bene, tuoi colleghi che conosci molto bene, tra cui Mario Sberna, Labinetti, Buttiglione, della deputata, io li voglio nominare uno per uno, Becchi, un altro. Perché che cosa dicono? Dicono che quando tu vai a prostitute, quando tu vai a puttane, devi essere prima multato, poi devi andare in comunità, no. E poi in carcere. Guarda, in carcere. Io credo che qui bisogna riattivare le case chiuse in Italia, se si vuole fare del bene anche alle donne, perché quello si fa del bene alle donne, sì. Non è che si fa del male, si fa del bene, perché almeno si leva da mezzo alla strada, si leva da mezzo alla delinquenza e sta controllata e pagano le tasse. Ma dai, su, ma ti pare possibile che Razzi debba dare lezioni a questi qua che sono tutti così, no? Tutti a Buttiglione che è un filosofo. Ma guarda, io vengo dalla campagna e ne sono fiero. E ne sono fiero, io vengo dall'Abruzzo, tu sai, io vengo da un paese Giuliano. Sagna e fagioli, tu lo sai, al Melograno si mangia bene. Insomma, non è che ci vuole grandi personaggi per dire che bisogna rifare le case chiuse. Non è che ci fa bisogno di un scienziato, ci fa bisogno di un laureato. Senti una cosa, Antonio, io ti voglio, al di là della maglietta, eccetera, ti voglio chiedere una cosa, è già un po' di tempo che non ci sentiamo. Ma queste magliette, però, non l'abbiamo detto, verranno battute a un'asta, immagino. Beh, adesso faremo. Comunque, sono state prodotte 100. Io spero, perché voi siete una super radio 24, la Zanzara, sì, e certo. Voi due, come ho sempre detto, Cristo, prima vi ha fatto e poi vi ha accoppiato insieme. Beh, adesso volendo o nolendo, che magari ogni tanto che fate la litigata, però vi volete bene alla fine, perché come si dice, l'amore non è bello se non è litigarello. È la stessa cosa voi, capito? Vi godo, però vi volete bene alla fine, perché quando ci si vuole bene c'è bisogno anche di litigare. Ma certo, la pensiamo diversamente su molte cose. Senti, Antonio, però al di là della maglietta, io ti voglio chiedere una cosa. Ma hai visto Floris che casino che è successo? Nonostante Crozza, un disastro. Guarda, Giuseppe, dimmi. Io gli do un consiglio d'amico. A chi? A Floris? Floris invita a me e Crozza, vedrà che arriverà al 20-30% di cero. 20% non credo, però tu stai dicendo una cosa, però questo è no, 20% non esageriamo. Non credo, lo dico io, questa è la parola mia. Questo non credo. No, ma io però invece su questo credo. No, però 20-30% no, però diciamo Floris se si può salvare secondo Razzi in che modo? Ecco, spieghiamo. Ma io sono sicuro che se invita a me e Crozza, sono sicuro che fregherà Giannini, tranquillamente. Altro che Benigni, dici? Benigni che c'è? Che è Benigni meglio di me e di Crozza? Scusi. Cioè, Razzi, l'accoppiata Razzi. Vabbè, lui ha vinto il premio. Che ha vinto? Che ha vinto? Lì a... Che ha vinto? Che ha vinto? Ha vinto l'Oscar film che io l'ho visto e mi è piaciuto molto. Non c'è dubbio. È stato bellissimo, anche quel momento pure con quel bambino che faceva il gioco. I giochettini, quello era bravo, dentro cosa? Sì, era dentro adesso, adesso io un campo di concentrazione. Non credo che Benigno possa fare meglio di Crozza e di me. E di Razzi insieme, perché Crozza da solo ormai non funziona più, diciamo la verità, funziona meno. Comunque chiami me, Floris, questa è la cosa, questo è l'appello che fai. Per salvare la trasmissione. Visto che Giovanni lo conosco, che l'ho conosciuta da Mezzano, ha un premio, pure, conosce, pure. E allora, visto che c'è questa reciproca simpatia, io sono disponibile. Per la prossima puntata? Certo, sono per la prossima puntata con Crozza. Non è male questa cosa. Senti, deve invitare pure Crozza, perché magari dopo vedrà. Quello è fisso là. Ma con chi sei lì? Con tuo figlio sei lì? Sì, adesso sono uscito fuori dal ristorante perché c'è il figlio che sta dentro mangiando, perché qui in Svizzera si mangia presto. Ma è prestissimo, è prestissimo. Quanti anni ha tuo figlio? Mio figlio ha 34. Beh, 34 anni, ma è attaccato al padre, cioè lo considera una specie di dio, lo considera una specie di... Sì, no. Ti difendono dagli attacchi di quelli che pensano, eccolo quello là. Quello ha detto, io ho detto, tu tatti calmo e non fare niente. Perché lui dice, se ti sento qualcuno che parla male, io li spacco in due. Fatti calmo, dico, questo è quello che vorrebbe la gente, in modo così ti rinunciano, ti querelano. Vabbè, Parenzo, che vuoi dire a Razzi? Razzi, bisognerebbe andare oltre, cioè lo spazio delle 19:40 io lo affiderei direttamente a Razzi ogni sera. Volevo capire da Razzi invece. Ormai non c'è più nessuna confusione, il patto Renzi-Berlusconi. Senti un attimo, solo Berlusconi può salvare Renzi, Antò? Beh, quello sicuro. Berlusconi c'ha una marcia in più, che se ne voglia dire i consigli glielo può dare solo Berlusconi. Ah, i consigli a Renzi glieli può dare solo Berlusconi. Ma io, come l'ho chiamato sempre, l'archimede della politica è Berlusconi, sì. Capito? Cioè, che Renzi lui si può salvare solo se Berlusconi continua ad appoggiarlo. Ma quello è certo, senza l'appoggio di Berlusconi sono fregate, perché tra di sono cazzi acidi, litigano. No, tra di loro litigano, ci mancherebbe, quelle del PD non vanno d'accordo, allora con l'accordo del presidente Berlusconi lui risolve ancora tanti problemi. Ecco, tu sei contento di questo accordo, di questo patto Berlusconi-Renzi? Ma per il bene dei cittadini sì, per il bene dei cittadini, che se si può fare del bene a tutti i cittadini ci mancherebbe altro. Hai visto la magistratura? Hai visto la magistratura subito ha indagato il padre di Renzi, Questo io non credo, non so come posso... No, credo, io, questo è vero. Allora mi, credo. Come molte volte io mi scappa di dire mi sono di rovigo e non mi intrigo, cioè io non mi mischio in queste cose qui perché non conosco e non so, perciò quando una cosa che io non so non mi esprimo, io mi esprimo solo quando le cose lo so. Ma è vero che, ma è vero che tuo figlio fa la manicure? No, che fa? No, vende prodotti... Sì, l'ha fatto questa, adesso invece è ritornata alla fusta a fare il suo vecchio mestiere, quello di venditore di elettrodomestici. Prima che faceva, scusa? Aveva fatto le cose di manicure, faceva le... Che faceva? Faceva le unghie alle donne. Ah, faceva le unghie alle donne? Vabbè, quello è un marpione come te, secondo me, o no? Sì, mi sa che ha pigliato lo stesso sangue, che ne so io. Ha preso dal padre, mi sa. Ha pigliato i visi del padre di quando era giovane. Adesso questo non si vuole sposare, c'è 34 anni, dico, ma... E io gli sto dietro, ma... C'è donne. Almeno... Quante donne c'ha? Un sacco di donne c'ha. Io oggi sono stato a passeggio con lui, che gli chiamava a destra e che gli chiamava a sinistra, qui, e dico, ma che fai? Sono tutte quelle che mi sono fatto di notte. L'hai detto tu, non no, l'ho detto, l'ho detto io. Senti, pensa se ti nasceva gay. Se lo dovevi pigliare pure così, che voleva fare? Voleva sparare? Sparare no, però certo. Purtroppo quando capita così sono doni che il Signore ti manda e dobbiamo stare a quelle che il Signore ti manda. Certo, possiamo, certo. Poi, una disgrazia però, una disgrazia però no. L'importante è volersi bene. Ah, non c'è dubbio. Vabbè, Anto, ti abbraccio, dai, la maglietta, fra poco vendiamo la maglietta, fra poco vendiamo sta maglietta. Mi raccomando, ciao. Anche il maestro Pietro Ferrante. Vabbè, dopo ci parliamo col maestro, ciao amico mio, ciao. Io non sono una un'estimatrice proprio di Cane, è un po' scostumata. Delle donne non è merce, non è una cosa, ha a che fare con la persona, con la dignità della persona, deve essere sempre salvaguardata. Per cui coloro che pensano di poter acquistare, come comprano un cagnolino o comprano la cioccolata, anche il corpo di una donna, stanno semplicemente sbagliando. Gli diamo 3 multe consecutive, alla quarta gli diciamo o vai a fare un corso di recupero dalla durata di 3 mesi oppure vai in carcere. Dai ragazzi, ma qui siamo veramente al Torquemada de Noantri, dai, siamo veramente al... Il carcere, per carità, dai, ma anche Davide, recupero. Sei a quel livello lì, vergognati, dai, l'ha detto prima Giovanni, l'ascoltatore, no, dai. Va bene, dai. Non può fare sesso, si accende la televisione, ci guardi un film, cosa vuoi che ti dica? Si guardi quello che ne ha voglia, ma non può andare a prendere una donna come fosse un cagnolino, una pecora. È un essere umano che ha la sua dignità e che non può essere sfruttato. Si diverta con la sua mano sinistra se è mancino, cosa vuoi che ti dica? Si diverta con la mano sinistra. Luca da Mantova, neo... Ah, questi sono i neo-borbonici, neo-tradizionalisti, questi, Luca da Mantova, dai. Luca, dimmi. Oh, finalmente, ma quando è neo-borbonico? Eh? Io mi voglio divertire quando accendo la zanzara. Siete ancora molliti stasera, mi sembra. Senti Luca, ma non è che possiamo urlare tutte le sere, amico mio, ma che ti aspetti? Dai, beh, su. Okay, rammolliti di che? Rammolliti di cosa? Di cosa? Beh, dimmi. Un po' fiato, un po' boh, non lo so io. Dai, preparate la sega o un'ambulanza adesso che. Sì, adesso ogni secondo, ogni secondo mettiamo in moto, dai. Sì, perché qua quando si dicono cose normali si viene o segati o vai, forza, ma non ti preoccupare, di quello che ti allora, pare, avanti invece di dire stronzate. Beh, io volevo rispondere innanzitutto a Red Ronnie. Per quanto riguarda il discorso. Già me lo stai facendo ammosciare, a proposito di ammosciamenti, già lo stai facendo ammosciare tu, Ah sì? Sì, sì. Per fortuna, sì, vuol dire che io non sono da quella parte là. No, ma non è quello il punto, sono le parole, non è la persona, sono le parole. Dato che vuoi ritmo, dato che vuoi casino, dato che ti stai annoiando. No, io che devo farlo, ti stai ci stai facendo, però tu ci stai, siccome adesso il palcoscenico è tuo, ci stai facendo annoiare. Va bene. Allora, ha detto che da Gesù prima erano tutti vegetariani, no? Citando la Bibbia, non è assolutamente vero. Sì, lo sapevamo che non era vero. Poi lose you, and I don't know where I'm going to. Allora Luca, che volevi? Non ho capito. Eccomi qua. Allora, poi seconda cosa. Aspetta. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Lanza? Sì. Ma che volete da noi, neoborbonici? Sono cruciani. Salve, come va? Tutto bene? Tutto bene, Lanza. Perché ce l'avete con noi? Perché ce l'avete? Ma noi abbiamo con voi. Ma no, avete fatto un casino con gli sponsor, dai, con le pubblicità. Ma allora, che posso dire la verità? Lei deve avere un po' più rispetto per noi meridionali. E in modo particolare per noi neoborbonici. Noi non abbiamo niente da guadagnare a quelle ricette che facciamo da 20 anni. Noi stiamo riscoprendo la vera storia, appunto. Vabbè, ma voi avete le idee che avete, ma a parte ma che... Ma non si tratta di idee, attenzione, le idee sono di pensieri che l'uomo sviluppa. Sì. Noi parliamo di dati scientifici. Ma quali dati scientifici, dai? Insomma, uno si può chiamare neoborbonico. Fate un'associazione culturale, va bene, per studiare la storia. Va benissimo. Qual è il problema? Ma non capisco poi perché te la prendi con noi citando non so che cosa, allora, scrivendo agli sponsor il boicottaggio. Ma nessuno ti dà retta. Nessuno ti dà retta. Lanza, dai. Se tu mi hai chiamato, significa che praticamente qualcuno mi sta dando retta. Ma sì, ma noi giochiamo perché per noi è un gioco. Va bene, e non giocare così. Io non gioco quando non sto parlando male degli altri. Io non sto a parte che questa è una trasmissione radiofonica con toni anche di un certo tipo, per cui non è questo il punto, non è questo il problema. Io ho semplicemente detto che una parte di responsabilità nella morte di Bifolco è di Napoli e della sua illegalità. Non mi pare di aver detto una cosa così strana. Chi ci ha regalato questa legalità? Ma dai, su, sì, lo Stato, Garibaldi, poi Garibaldi, poi Leone Traiano è abbandonato a se stesso da 50 anni. Dai su che? Se quel ragazzo invece di stare in mezzo alla strada avesse avuto un lavoro e quel giorno stava a letto dormendo. Ah, com'è la storia? Se quel ragazzo lì a 17 anni avesse avuto un lavoro e probabilmente non sarebbe stato in strada. Che significa? Tu hai diritto di spararmi, ma che mi dici? Chi glielo deve dare il lavoro? Lo Stato? È chiaro, lo Stato. Il lavoro, diamo lo Stato, allora? il lavoro, lo Stato. Senti, allora, ma dai, Lanza, su. Noi continuiamo il boicottaggio dei prodotti. Ma io sto dicendo semplicemente che tu dici una follia quando dici che quel ragazzo lì non sarebbe morto, non sarebbe più rispetto per i meridionali. Ma che c'entra rispetto per i meridionali? Non c'entra niente. Ma se uno nega la realtà, fa un danno a se stesso. Ma se tu che ne credi la realtà, no io. Ah, io nego la realtà. La tua realtà qual è? Che siete stati oppressi dal nord? Che siete stati oppressi dal nord? Sono cresciuto a Secondigliano, che è il quartiere più difficile del mondo. Mi sono laureato, mi sono specializzato, siamo tutte persone per bene. È chiaro che in percentuale c'è anche gente praticamente che fa malaviva, la fa in tutto il mondo. Ma quanti meridionali là li mettono in fila per vedere i danni che hanno fatto all'Expo di Milano e le ruberie di danni? Vabbè, ma non c'entra niente, Lanza. Voi avete scritto ad alcuni sponsor di questa trasmissione che non sapevano per boicottare la zanzara, ma vi rendete conto o no? E tu renditi conto. Ma ti rendi conto? No, ma non vi hanno dato retta, vi hanno fatto una pernacchia. Ve la facciamo pure noi una pernacchia, tra l'altro. Tu quella... la bene, infatti mi hai chiamato, però io continuo a mi alzare di quel costaggio. Ma perché no, ma... lascia... che sponsorizza la... Vabbè, la... ma continua, continua a boccare. Ma non ho capito una cosa. I neo... esatto, questo veramente non l'ho capito. È interessante questo, sì. I neo-borbonici, giusto? Neo-borbonici. Neo-borbonici vecchi, nuovi. Nuovi, neo-borbonici, nuovi borbonici, sì. Esattamente. Con tutto il rispetto. Ma che cazzo fanno? Giusto per capire. Cioè vogliono fare, vogliono ricreare il regno delle due Sicilie, giusto? No, anzi. Non lo capire, no, lo sta dicendo lei. E che volete fare allora? Che volete fare? Stiamo semplicemente riscoprendo la vera storia, quella che ci hanno nascosto per 150 anni. È un'associazione culturale. Un'associazione culturale. Assolutamente sì, noi non ci siamo mai candidati, noi non abbiamo queste veleità. Un'associazione culturale. Vabbè, vi occupate di storia così. Cioè, allora che c'entriamo noi con la storia? Ma però non lo dire con questo atteggiamento tu, come se tu fossi qualcosa di superiore. No, io superiore, per carità, assolutamente. Fai un metro sopra. Assolutamente, allora, certamente. E dammi del lei perché non ti ha autorizzato a darmi del tuo. Ma è uguale, guarda, è uguale. Puoi darmi anche del tuo. Comunque, se vuoi ti do del lei, non c'è problema. Perfetto. Dottore professor Lanza. Non è professore lei, no? Non sono professore, sono dottore, va bene. Che fa di mestiere, dottore professore? Fa il giornalista, caro. Fa il giornalista, benissimo. Allora, professor Lanza, no, scusi, dottor Lanza, che cosa abbiamo detto di così offensivo sulla vicenda di Bifolco? Scusi? Scusi, lo commenti pure, mi hai chiamato attaccando. Cioè, cosa hai detto? Perché ci vuole Napoli? Ma cosa ci vuole per iniziare? No, quella è una domanda. Quella era una domanda. Una domanda provocatoria. Sì. Come sai, questa è una trasmissione di un certo tipo. Dunque, era una domanda provocatoria che cercava una risposta, chiaro? Oppure, dato che sei dottore, dovresti arrivarci, no? Dovresti arrivarci alla domanda provocatoria. Io non voglio il Napoli da nessuna parte. Allora, tanto per ricordarlo. Noi meridionali, voi ci chiamate noi meridionali, ma noi siamo stati sempre... Ma io non chiamo nessuno meridionale, guarda, tu sei Salvatore Lanza per me, lei è Salvatore Lanza, non meridionale. Io voglio solo ricordare una cosa, da ogni parte, noi abbiamo inventato tutto. Ma che avete inventato tutto? Avete inventato delle cose e altri hanno inventato delle altre cose ancora? Siamo stati la culla della... Cioè siete superiori. Probabilmente sì. Abbiamo inventato tutto, dalla matematica alla filosofia, vabbè, dalla storia alla medicina. Comunque tutto. La frase più clamorosa di questa sera, la frase più clamorosa che lei ha detto è questa, Lanza, per carità. Se il ragazzo in motorino non sarebbe morto se lo Stato gli avesse dato un lavoro. E con questo... 50 anni che siamo abbandonati. Abbandonati, certo. Avete abbandonato. L'abbraccio fortissimo, basta questo boicottaggio perché è una cosa da dire. Io l'abbraccio di meno. Non si renda ridicolo con questo boicottaggio. L'abbraccio di meno e continuiamo a farlo. Non si senta ridicolo. Continuiamo a farlo, lei è ridicolo, non noi. No. E poi vedrà quando la Lichia non aveva più uno sponsor. Ma dove? L'abbraccio, ciao. Io no. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'abbiamo conosciuto in questo modo, Padre Giglio Giglioli. Il matrimonio gay, scoperta moderna. Vergognatevi voi falsi profeti che togliete all'uomo il suo essere immagine e somiglianza di Dio e perciò in Dio e con Dio vita. L'abbiamo conosciuto che parlava di Satana assetato di sangue. Mi è stato detto di immolare mia figlia a Satana. Io faccio parte di una setta satanica. L'ho fatto. Sa quanto dolore. Satana è assetato di sangue! Un omosessuale di 35 anni, credo, intorno ai 35-36 anni, Davide, ha chiamato a casa sua Padre Giglio Giglioli. Pronto? Padre, buongiorno, mi chiedo scusa se la disturbo. No, Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Davide, io sono omosessuale, io ho cercato in tutti i modi di cambiare, ho provato ad andare con donne, insomma ho cercato in tutti i modi ma non ce l'ho fatta, non ce la faccio, cosa devo fare secondo lei? Che bravo lei, ascolta Davide, dovresti secondo me no, trovarti un prete che ti riesca come padre spirituale. Sono omosessuale, il consiglio qual è di padre Giglioli? Trovati un prete. Perché quel problema lì no, può essere un problema, come dire, legato a determinati sofferenze che magari si è avuto da ragazzini. Quindi se tu ti trovi un padre spirituale e cerchi di seguirlo, vedrai, il problema lo si risolve. Il problema si risolve. L'amore, l'amore gay non è amore. Dio ha creato l'uomo e la donna perché l'uno perfeziona e realizza l'altro, che è chiamato al matrimonio. L'amore sessuale a livello di uomo, uomo-uomo o donna-donna, non è un amore, è un'autosoddisfazione, è un compiacimento, è un piacere. Quindi secondo lei io sto cercando, perché mi fa impazzire, il sesso maschile mi fa impazzire, padre. Sì. Mi fa impazzire, io, ascolta, perché ho voglia. Tu, in realtà, nella tua formazione, no, ti è venuto a mancare quell'aspetto amoroso che ti faceva sentire che in realtà tu non sei il piacere dell'altro, né l'altro il piacere per te, ma questa affettività ti veniva realizzata pienamente, non so io, nel talento che tu hai, nel tuo donare degli altri. Padre, la Chiesa è sempre stata, mi sembra sia profondamente contraria agli apporti, ai rapporti omosessuali, sì. E quindi anche contro la sodomizzazione, tutte queste cose qui. È una deformazione di quello che è la bellezza dell'uomo e la bellezza anche della donna, se la donna è anche lei omosessuale, mi spiego. E cioè, è un'aberrazione che noi facciamo, no? È uno sbaglio, però voglio dire, no? È uno sbaglio che non ci... Alessandro da Siena, un'aberrazione. Buonasera. Uno sbaglio. Alessandro, dimmi. Buonasera. No, volevo dire a te e a Razzi che non lo sapete, però voi siete vittime di una malattia autoimmune che io ho studiato perché quando ero giovane mi è capitato la fortuna di andare a vivere in Finlandia e in Finlandia ho conosciuto la malattia da noi poi scoperta e perfezionata con ricerche che si chiama fighite. Cioè? Cioè praticamente è quello che diceva Razzi, no? Che dormi tutte le sere in un letto diverso, delle volte ti svegli in un posto e non ti ricordi come ci sei arrivato, poi trovi una accanto a te, non sai nemmeno chi è. Questo tipo di sintomi qui. E poi si può fare come ha fatto Razzi, cioè si può sposare e la malattia va, diciamo, in fase di... Com'è stasi. Che si chiama, Parenzo? Satiriasi, come si chiama? No, lui ha detto fighite. Fighite, la fighite. Cioè, malati di figa, questo è il punto. Esatto, è proprio quello. Però la malattia non si sconfigge, no? È come un'allergia, cioè quando ritorni a contatto con l'allergia... Razzi sembra essere... Guarito. No, vi sembra, però rimettetelo in un ambiente dove è esposto agli allergeni e vedrete che la malattia ritorna... Cioè, quale sarebbe st'ambiente? Per esempio uno potrebbe andare, che ne so, nel nord Europa e entrare in alcuni localini che conosco io, tipo città tipo Riga o Tallinn, Stoccolma, eccetera. Dici, preso lì e messo in un altro contesto, la malattia riappare subito, esatto. La fighite. Quindi la malattia dormiente. Di figa, insomma. In questo momento è dormiente, Raggi, anche tu sei dormiente, Cruciani, meno dormiente di Raggi. Io non ho problemi, per cui da questo punto di vista, cioè non ho vincoli, capito? Parenzo è dormiente da sempre, perché lui non è... Ma io sono proprio sonnambulo. Cioè lui proprio gli passa davanti, ieri è passata davanti una durante la diretta di Matrix, l'ha mandata via, cioè una bella ragazza scozzese. No, che l'ha mandata via, è andato prima a Blob il pezzo, ho letto gli articoli del Times. Enrico da Torino, grazie. Enrico da Torino, beh, numero di telefono. Pronto, buonasera. Dimmi. volevo chiedere, volevo dire Parenzo, siccome è 40 anni che vado regolarmente a puttane. Oh, bene. Praticamente ho le braccia, ma non ho le mani. Non posso seguire il consiglio di quel personaggio. Sberna, sì, sì. Che va sì. di usare la mano sinistra. E volevo chiedere se mi poteva consigliare o magari aiutare. Parenzo non ha le mani, capito Enrico? No, ma io non ci siamo capiti. Che cosa vuole fare? Che tu pensi che lui, da quant'è che vai a puttane Enrico? 40 anni. Da 40 anni vai, anche come mai vai a puttane da 40 anni? Ma perché non ho capito, anche se uno ha... Sono brutto, peso 120 kg, sono brutto, nessuno mi vuole, cosa devo fare? Cioè, nella vita purtroppo. Ma no, ma il problema è questo, ma questo pesa 120 kg, è brutto e vuole andare a puttane. Si incontrano due esigenze, quella di Enrico che vuole scopare, giusto Enrico? Cioè quella di Enrico che vuole è quella di una donna che vuole guadagnare, Non è che può chiamare, scusi, lei è sfruttata? Cioè scusi, lei è sfruttata. Non c'è nessun equivoco, hai detto una follia, punto. Cioè, c'è un piccolo equivoco. Tu multeresti questo signore, questo Enrico, che va a prostituta da più di 40 anni, lo stai condannando. Ma per andarci in posti in cui la prostituzione è legalizzata. Dai, su. Purtroppo in questo paese i politici non vorranno legalizzare la prostituzione con i modi come abbiamo detto, il rischio, e questo signore lo saprà, che alcune di queste siano minacciate, vabbè, tagliate. Vabbè, hai già spiegato, Enrico, allora? Non ho capito. Allora voglio chiedere a Parenzo che mi dia però qualche consiglio, perché parlare purtroppo, siccome mi sembra un po' molto dire che parla però non dà risposte, mi dia delle risposte. Ma io non faccio il politico, dico semplicemente, vabbè, che questo ti ha chiesto, è uno che pesa 120 kg, è brutto, va a puttana da 40 anni, che deve fare secondo te? Ma è brutto, si sente brutto, quello che è, allora che deve fare questo qua? Fa benissimo ad andare, fa benissimo, c'è pieno di può chiamarle, ma lo vuoi multare, gli vuoi mandare a casa, sei sposato Enrico? Enrico, sei sposato o no? No. Ero sposato, poi purtroppo andando sempre così. Andando sempre a puttane. L'hanno beccato più che altro. Vabbè, no, mi ha proprio anche cacciato fuori. T'ha beccato, che devi fare? Vabbè, ciao Enrico, ciao. No, ma io l'ho dichiarato. Ciao. Vediamo se becchiamo Ferrero anche oggi, presidente della Sampdoria. Pronto, presidente? Chi parla? Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, c'è anche Parenzo, ci siamo sentiti l'altro giorno. Ciao, presidente. Come stai? Sai che botta di culo, se ci siamo sentiti... Si può dire culo? Sì, certo. Tanto non me ne frega niente. Vabbè, ho capito, presidente, a fine serata è sempre così un po'... No, stavo bene. Sempre con la voce stanca. Sì. No, volevamo parlare dello stadio sul mare, là. Saluto il presidente della Confindustria. Ma che c'entra essere presidente? Ma che televisione siete? No, è Radio 24, Squinzi non c'è comunque. Ci possiamo parlare con lei due minuti, non ho capito. Sì, non c'è problema. Sto trombando, ma vabbè. Ma come sta trombando, scusi? Si può dire trombando? Si può dire, sì, certo. Quando iniziano i lavori del nuovo stadio? Io penso solo una cosa. Come tutti pensi? I sogni belli, sì. Io aspico... No, auspico si dice. Io aspico, no, auspico, che questo sindaco sì. taglierà il nastro sì. e mi auguro prima che finisca il mandato. Sì. Chi è lei? Sono Cruciani, collega di Parenzo. Mi dispiace, a me sto Parenzo non mi frega niente. Ma no, è giusto che questo... Forza Samp! No, però Forza scusi, Samp. Che ci parla un po' di questo progetto famoso dello Stato. Ecco, guardi, questa... Renzo Piano lo farà. Questa... Chi lo farà? Magari questa cartina. Ma quale? Non se si vede qua. Vedete, qui c'è sta lo stadio. Qua potete notare che c'è sta il percorso ciclabile. No, ciclabile quello. Ciclabile, visto che ho fatto 100 film. C'è sta pure la sala cinematografica. Ma siamo in radio, non si vede niente, presidente. Ma questi, guardi, questi sono parcheggi dietro la pista. Vabbè, ciclabile. No, ma è ciclabile. Il salone nautico. Sì, vabbè. La zona interessante. No, entertainment, comunque non si vede alla radio, siamo alla radio. Non si vede, Se il problema è suo. Ma no, ma se perde un sacco di gnocca. Ma che c'entra la gnocca si adesso? Si può dire gnocca, raio. Vabbè, comunque, ci dico qualcosa di concreto, presidente. Guardi, posso dire due cose? Sì, certo. Ecco, due sono le cose più belle. Sì, no. Il sale della vita. Il cinema. Cinema, poi? La Sampdoria. Sampdoria, sì. E l'entertainment. No, ma sono tre cose. Lei ha detto tre cose. Lei ha detto due prima. Sono tre. Ho dimenticato una, ma non no, frega no. Niente. Vabbè, arrivederci, presidente. Il giornale ha detto che scrive. No, lei. Non è il giornale, è la radio. È la radio. Mi lascia il suo cellulare, che magari vengo a trovarla. Sì, 334, diamogli uno qualsiasi. Non si sente niente. Vabbè, tanto presidente. Non mi frega niente. Arrivederci, grazie. Grazie. Una cosa pazzesca, dai. Comunque è un mito questo presidente Ferrero, hai visto? Sì. Ma poi risponde sempre. Sempre, sempre. Non quando, capisce nulla. Quando, però risponde... quando lo chiami risponde sempre al telefono, sempre. Tiziano da Udine. Buongiorno, anzi buonasera. Buonasera, dica. Salve. Ah niente, guardi, volevo rapidamente, telegraficamente, mi piacerebbe che il signor Parenzo fosse coerente con quello che dice a 360 gradi. Cioè? Cioè lui praticamente prima si è lamentato del fatto che c'era quel sindaco della Lega, che non ricordo come si chiama, che col suo modo di fare avrebbe indotto al suicidio qualche omosessuale, no? Benissimo, ah no, la cosa lì. La politica... La politica di Parenzo, che è quella di fare la caccia alle streghe a chi va con le prostitute, ahimè, ha prodotto negli anni 90 diversi suicidi di giovani di 20 anni che sono stati sorpresi dalla polizia andare con le prostitute, venivano sequestrate le macchine e certo. Non hanno retto alla vergogna e si sono suicidati. È successo anche questo, certo. Esatto, allora prima, siccome secondo me io concordo che non bisogna mai, come si dice, mettere alla gogna nessuno, ecco, mi sembra che indurre al suicidio qualcuno che non ha fatto nessun reato solo perché magari nella sua testa c'è un po' di moralismo eccessivo, mi pare, allora, abbastanza. Premetto che diciamo nella mia che testa non c'è nessun moralismo. Lei deve essere coerente. Se uno vuole andare a prostitute, può andare in Svizzera, può andare, si può andare tutta la in allora Germania, dove in Italia, in io Italia, sono a favore dell'apertura Italia, delle case chiuse, quindi si sciacqui le orecchie. In Italia non è reato. Io, no? Esatto. Mettere la gogna un ragazzo di 20 anni, perché non c'è nessuna gogna, c'è una multa per combattere lo sfruttamento. Ha ragione l'ascoltatore, sei ridicolo per il secondo giorno consecutivo, ti dico che sei ridicolo. Se lei fosse coerente direbbe che entrambe le cose sono ugualmente vergognose, punto. Grazie. Con questo vi saluto, salve. Grazie. E chiudiamo con Vittorio Feltri, un po' fischiato alla festa di Giorgia Meloni, però ha ragione al 100%. Feltri e il matrimonio gay. Io avverto gli omosessuali, attenzione, voi non sapete a che cosa andate incontro. Questo io lo dico, perché è il matrimonio in sé che io posso discutere, avendone fatti un paio, o anche... diciamo, ecco, è anche qualche argomento da portare, però così come molti di noi hanno sbagliato a fare un matrimonio, diciamo così, conformista, perché dobbiamo impedire ad altri di fare la stessa cosa? È sbagliatissimo. Meglio con i gay che... Chiedete a un bambino se preferisce rimanere in orfanotrofio fino a 20 anni o se non preferisce andare a finire nella casa di due omosessuali che hanno i requisiti per allevarlo. Se non vi va, a me non me ne frega, scusate la volgarità, nulla. Voleva dire un cazzo, secondo me, poi si è corretto. I pedofili stanno in famiglia. Il più alto numero, la più alta percentuale di pedofili dove si trova? Nella famiglia tradizionale. No. Non siete a conoscenza delle statistiche. Vabbè. Sentite, non se contestiamo, no, facciamo. No, se non vi va bene, andate a casa, controllate anche su internet. Forza Vittorio, a lunedì 18:30, ciao!